Scorse essa. Sì, dal bacino Roundwood nella contea di Wicklow, della cubatura di 2 miliardi e 400 milioni di galloni, passando per un acquedotto sotterraneo di canali di filtraggio a conduttura doppia e semplice, costruito in base al costo dell'impianto iniziale di 5 sterline alla yarda lineare, attraversando la Dergol, Rough Down, il Glen of the Downs e Callow Hill fino al bacino di 26 acri di Stillorgan, a una distanza di 22 miglia legali. E di là, attraverso un sistema di cisterne sussidiarie e un gradiente di 250 piedi, fino al confine della città al ponte Eustace, Leeson Street Superiore. Per quanto, a causa della prolungata siccità estiva e del rifornimento giornaliero di 12 milioni e mezzo di galloni, l'acqua fosse scesa sotto il livello inferiore delle cateratte, ragion per cui l'ispettore del circondario e ingegnere delle acque, Mr. Spencer Harty, IC, in base alle istruzioni della Commissione per l'approvvigionamento idrico, aveva proibito l'uso dell'acqua municipale per scopi che non fossero quelli del consumo alimentare, considerando l'eventualità di ricorrere all'acqua non potabile del Canal Grande e del Canale Reale come nel 1893, soprattutto in quanto i funzionari dell'ospizio di Dublino Sud, nonostante la loro razione di 15 galloni al giorno per ogni ricoverato, fornita da un contatore di 6 pollici, erano stati ritenuti responsabili di uno spreco di 20.000 galloni a notte, in base a lettura del loro contatore e constatazione del rappresentante legale dell'amministrazione, Mr. Ignatius Rice, procuratore, avendo quindi agito a detrimento del resto della popolazione, e cioè di cittadini contribuenti, solvibili, solidi. Che cosa ammirava Bloom? Acquofilo, attintore d'acqua, portatore d'acqua di ritorno alla cucina economica nell'acqua. La sua universalità, la sua eguaglianza democratica e la fedeltà alla propria natura nel tendere sempre al suo livello, la sua vastità nell'oceano della proiezione di Mercatore, la sua profondità insondata nella fossa di Sandam nel Pacifico, di oltre 8.000 tese. L'irrequietezza delle sue onde e delle molecole di superficie che visitano volta a volta ogni punto della linea costiera, l'indipendenza delle sue unità, la variabilità degli stati del mare, la sua quiete idrostatica in tempo di bonaccia, la sua turgidità idrocinetica nelle maree dei quarti pari di luna e in quelle primaverili, il suo placarsi dopo aver infuriato, la sua sterilità alle calotte circumpolari, artica e antartica, il suo significato climatico e commerciale, la sua prevalenza di 3 a 1 sulla terraferma del globo, la sua indiscutibile egemonia che si estende per leghe e leghe quadrate su tutta la regione al di sotto del tropico subequatoriale del Capricorno, la stabilità plurisecolare del suo bacino primevo, il suo letto luteo fulvo, la sua capacità di sciogliere e tenere in soluzione tutte le sostanze solubili, inclusi milioni di tonnellate dei metalli più preziosi, la sua lenta erosione di penisole ed isole, la sua persistente formazione di isole omotetiche, penisole e promontori tendenti ad abbassarsi di livello, i suoi depositi alluvionali, il suo peso e volume e densità, la sua imperturbabilità in lagune e laghetti d'altopiano, la sua gradazione di colori nella zona torrida e temperata e fredda, le sue ramificazioni veicolari in correnti continentali attraverso laghi e in fiumi confluenti sfocianti nell'oceano con i loro tributari e correnti transoceaniche, la corrente del Golfo, coi suoi rami nord equatoriale e sud equatoriale, la sua violenza in maremoti, trombe marine, pozzi artesiani, eruzioni, torrenti, mulinelli, straripamenti, piene, onde di fondo, spartiacque, geysers, cataratte, vortici, maelstroms, inondazioni, diluvi, nubifragi, la sua vasta curva circumterrestre orizzontale, il mistero delle sue sorgenti e l'umidità latente, rivelata da strumenti rabdomantici o igrometrici, ed esemplificata dal pozzo vicino al foro del muro a Ashtown Gate, la saturazione dell'aria, la distillazione della rugiada, la semplicità della sua composizione, due parti costituenti di idrogeno per una parte costituente di ossigeno, le sue virtù terapeutiche, il suo potere sostenitore nelle acque del Mar Morto, la sua eccezionale forza di penetrazione in rigagnoli, letti di torrenti, argini inadeguati, falle a bordo, le sue proprietà di ripulimento, di estinzione della sete e del fuoco, di nutrimento della vegetazione, la sua infallibilità come paradigma e paragone, le sue metamorfosi come vapore, nebbia, nube, pioggia, nevischio, neve, grandine, la sua forza negli idranti rigidi, la sua varietà di forme in laghetti e baie, e golfi e cale e curve di fiume e lagune e atolli e arcipelaghi e stretti e fiordi e mincis ed estuari soggetti a marea e bracci di mare, la sua solidità nei ghiacciai, negli icebergs e nei banchi di ghiaccio, la sua docilità nell'azionare ruote di mulini idraulici, turbine, dinamo, centrali elettriche, candeggiatrici, concerie, battitrici, la sua utilità in canali, fiumi, se navigabili, bacini a secco e galleggianti, la sua potenzialità derivabile da maree imbrigliate o corsi d'acqua che cadono da un livello all'altro, la sua fauna sottomarina e la sua flora, anacustica, fotofoba, numericamente, se non letteralmente, abitanti del globo. La sua ubiquità, in quanto costituente il 90% del corpo umano, le qualità nocive dei suoi effluvi in paludi lacustri, stagni pestilenziali, acqua di vasi da fiore andata male, pozze stagnanti sotto la luna calante. Avendo messo il bollitore semi riempito sui carboni, adesso incandescenti, perché tornò egli al rubinetto ancora aperto? Per lavarsi le mani sudice con un pezzo parzialmente consumato di sapone Barrington profumato al limone, a cui aderiva ancora la carta, comprato 13 ore prima per 4 pence e non ancora pagato, nell'acqua fresca, immutevole, sempre mutevole, e asciugarle, faccia e mani, in un lungo panno di tela d'Olanda dagli orli rossi, scorrente su un rullo mobile di legno. Quale ragione addusse Stephen per declinare l'offerta di Bloom, che era idrofobo, non sopportando il contatto parziale per immersione o totale per sommersione in acqua fredda, il suo ultimo bagno avendo avuto luogo nel mese di ottobre dell'anno precedente, non gradendo sostanze acquose quali il vetro e il cristallo, non fidandosi dell'acquaticità di pensiero e di linguaggio. Che cosa impedì a Bloom di dare a Steven consigli di igiene e profilassi ai quali avrebbero dovuto aggiungersi suggerimenti riguardo a un preliminare inumidimento della testa e a una contrazione dei muscoli con rapido spruzzamento del viso, collo, regione toracica ed epigastrica in caso di bagno di fiume o di mare? Le parti dell'anatomia umana più sensibili al freddo, essendo la nuca, lo stomaco e il tenar, ovvero pianta del piede, l'incompatibilità dell'acquaticità con l'originalità erratica del genio. Quali consigli didattici addizionali represse egli analogamente? Dietetici. Concernenti la percentuale rispettiva di proteina ed energia calorifica nel lardo, nella molva salata e nel burro, l'assenza della prima nell'ultimo e l'abbondanza della seconda nel primo. Quali sembravano al padron di casa le qualità predominanti dell'ospite? Sicurezza di sé, una facoltà uguale ed opposta di abbandono e di recupero. Quale fenomeno concomitante ebbe luogo nel recipiente del liquido sotto l'azione del fuoco? Il fenomeno dell'ebollizione. Ventilata da una costante corrente ascensionale tra la cucina e la gola del camino, L'iniezione fu comunicata dalle fascine di materiale precombustibile alle masse poliedriche di carbone bituminoso, contenenti in forma minerale compressa i materiali decidui, foliati e fossilizzati delle foreste primeve che avevano a loro volta derivato la loro esistenza vegetativa dal sole, fonte primaria di calore radiante, trasmesso attraverso l'onnipossente etere luminifero e diatermano. Il calore, condotto, modo di vibrazione sviluppato da questa combustione, fu costantemente e progressivamente trasmesso dalla fonte calorifera al liquido contenuto nel recipiente, venendo irradiato attraverso la scura superficie disuguale e opaca del metallo ferro, in parte riflesso, in parte assorbito, in parte trasmesso, elevando gradualmente la temperatura dell'acqua dal punto normale al punto di ebollizione, aumento di temperatura esprimibile come risultato di un consumo di 72 unità termiche necessarie per portare una libbra d'acqua da 50 gradi a 212 gradi Fahrenheit. Come si manifestò il verificarsi di questo aumento di temperatura? Con un duplice getto falciforme di vapore acqueo da sotto il coperchio del bollitore da ambo i lati simultaneamente. A quale uso personale poteva Blum adibire l'acqua in tal modo bollita? Farsi la barba. Quali vantaggi accompagnavano una rasatura notturna? Una barba meno dura. Un pennello meno duro se lasciato intenzionalmente tra una rasatura e l'altra nella sua spuma agglutinata. Una pelle meno dura nel caso di eventuali incontri femminili in luoghi remoti a ora insolita. Tranquille riflessioni sui fatti del giorno. Una sensazione di maggior pulizia quando ci si sveglia dopo un sonno più ristoratore, mentre i rumori mattutini, premonitori e disturbatori, un bidone del latte sbattuto, la doppia picchiata del postino, un giornale letto, riletto nell'insaponarsi, rinsaponarsi nello stesso punto, un colpo, un botto, la lotta cercando quel fatto pensato sfuggito del tutto, potevano invece causare una maggior velocità di rasatura e un'incisione sulla quale un cerotto tagliato con precisione e umettato e applicato aderisse, il che farsi doveva. Perché l'assenza di luce lo disturbava meno della presenza del rumore? A cagione della sicurezza del senso del tatto nella sua mano ferma, piena, maschile, femminile, passiva, attiva. Quale dono possedeva essa, la sua mano, seppur con tendenze contraddittorie? Il dono chirurgico operatorio, se non che era riluttante a spargere sangue umano, anche quando il fine giustificava i mezzi, preferendo, nel loro ordine naturale, l'elioterapia, la psicofisicoterapeutica, la chirurgia osteopatica. Che cosa stava in mostra sulle mensole inferiore, mediana e superiore della credenza aperta da Blum? Sulla mensola inferiore cinque piatti piccoli verticali, sei piattini orizzontali su cui posavano tazze capovolte, una tazza salvabaffi non capovolta, un piattino di porcellana Crown Derby, quattro portauova bianchi con l'orlo d'oro, un borsellino di camoscio aperto con dentro monete, soprattutto di rame, una scatoletta di pastiglie aromatiche alla violetta. Sulla mensola mediana un portauovo sbreccato contenente pepe, un recipiente di sale fino, quattro olive nere appiccicate entro carta oleata, una scatola vuota di pasta di carne Plumtree, un panierino ovale di vimini col fondo di fibra e contenente una pera Jersey, una bottiglia semivuota di porto per invalidi, bianco, prodotto da William Gilby & Co., semispogliata dall'involucro di velina rosa corallo, un pacchetto di cacao solubile Epps, 5 once di tè sopraffino Ann Lynch, a 2 scellini la libra, in un sacchetto di stagnola incincignata, un barattolo cilindrico contenente il miglior zucchero cristallizzato in zollette, 2 cipolle, Una più grande, spagnola, intera, l'altra più piccola, irlandese, bisecata con maggior superficie e più olezzo. Un vasetto di panna della latteria modello irlandese. Un orciolo di creta marrone contenente 3 ottavi di pinta di latte adulterato e acido, convertito dal calore in acqua, siero acidulo e caglio semisolido. Il che, aggiunto alla quantità sottratta per le colazioni di Mr. Bloom e Mrs. Fleming, ammontava a una pinta imperiale. Quantità totale originariamente consegnata: 2 chiodi di garofano, un mezzo penny e un piattino contenente una fetta di cotoletta fresca. Sulla mensola superiore, una batteria di vasetti vuoti di marmellata di varia dimensione e provenienza. Che cosa attirò la sua attenzione sulla tovaglina della credenza? 4 frammenti poligonali di 2 scontrini del totalizzatore, rossi lacerati, numerati 8, 87, 88, 6. Quali reminiscenze gli corrugarono temporaneamente la fronte? Reminiscenze di coincidenze, verità più che romanzesca. Preindicazione del risultato dell'handicap in piano della Coppa d'Oro, il cui risultato definitivo e ufficiale aveva letto sull'Evening Telegraph, ultima edizione rosa, nel rifugio del vetturino al Ponte Bath. Dove erano state da lui ricevute precedenti informazioni relative al risultato effettivo o potenziale? Nel locale autorizzato di Bernard Kiernan, 8, 9 e 10 Little Britain Street, nel locale autorizzato di David Byrne, 14 Duke Street, in O'Connell Street inferiore, all'esterno di Graham Lemon, quando un cupo giovanotto gli aveva messo in mano un volantino da buttar via, poi buttato via, che annunciava Elia, restauratore della chiesa di Sion. Lincoln Place, fuori del locale di F.W. Sweeney e C. S.R.L., farmacisti, quando, dopo che Frederick M. Bantam Lyons aveva rapidamente e successivamente richiesto, compulsato e restituito una copia dell'edizione corrente del Freeman's Journal e National Press, che egli era stato lì lì per buttar via, poi buttata via. Egli aveva proceduto verso l'edificio orientale dei bagni caldi e turchi, 11 in Leicester Street, con la luce dell'ispirazione risplendente sulle sue sembianze e portando in braccio il segreto della propria razza, inciso nella lingua della predizione. Quali considerazioni attenuanti moderavano i suoi turbamenti? La difficoltà dell'interpretazione. Poiché la significazione di ogni evento seguiva variabilmente al suo occorrere, come l'eco acustica seguiva alla scarica di elettricità, e della controvalutazione d'una perdita effettiva dovuta alla mancata interpretazione del totale di perdite potenziali procedente in origine da una interpretazione felice. Il suo stato d'animo? Non aveva arrischiato, non si era aspettato nulla, non era stato deluso, era soddisfatto. Che cosa lo aveva soddisfatto? Il non aver subito alcuna perdita positiva. Avere apportato un guadagno positivo agli altri. Luce ai gentili.